vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.37, tramonterà alle 17.03. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Anche se non con grandi numeri, la produzione regionale di kiwi è una voce importante nel settore frutticolo, se non per il fatto che è tutta dedicata all'export, export di qualità oltremare dal Nord America all'Australia, e la cooperativa che la coordina è in continua crescita produttiva e organizzativa. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che si occupa di una figura strategica della società contadina del passato, che già conosceva le prassi del riciclo. Parliamo invece di nuove provvidenze in favore dell'agriturismo nella rubrica delle normative e a seguire delle zone olivicole del Carso e della costiera triestina, per passare poi al parco e territorio del Castello di Spesa. Penultima puntata poi della serie dedicata all'etame, prima di passare all'andamento dei mercati, le previsioni del tempo e al proverbio friulano della luna. Una delle colture specializzate che stanno dando buoni risultati fin dagli anni 70 in regione è quella del kiwi, un comparto che sta cambiando, si sta specializzando e soprattutto organizzando intorno alla realtà cooperativa che lavora in regione, la Friul Kiwi di Rauscedo. Oggi nei nostri studi c'è il suo direttore Antonio Pittana. Iniziamo con la carta d'identità di Friul Kiwi. Nasce nell'84 a Rauscedo, attualmente a 120 soci che provengono dalle province di Udine e Pordenone, le superfici sono di 300 ettari totali, di cui 250 in produzione e 50 circa in fase di allevamento. Rende allevare kiwi? Sicuramente, diciamo che se facciamo un confronto con i seminativi non c'è paragone. Dall'altra parte dobbiamo capire che le colture arboree richiedono un impegno diverso da quello dei seminativi. Come sono andate le ultime annate? Le ultime annate, causa avversità atmosferiche, non così bene. Certamente il clima sta cambiando, nella nostra regione abbiamo avuto diversi problemi di freddo, di gelate, di piogge eccessive, ma tutto sommato, se guardiamo una media di 10 anni, non così male. Lei prima ci diceva che tutta la vostra produzione va all'estero, ma a un estero a lunghissimo raggio. Perché e dove? Noi nel 2006, dopo aver fatto un'esperienza europea di vendita per molti anni, abbiamo capito che il mercato ormai era saturo, per cui ci siamo rivolti a quello che chiamiamo oltremare. Nel nostro caso è principalmente Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, ma anche Australia e Nuova Zelanda. Oggi l'export per noi vale il 95%. Vendere i kiwi in Nuova Zelanda non è come vendere un po' i frigoriferi al polo. È vero, però per noi diciamo una sfida interessante, ci fa capire che il nostro prodotto può muoversi nel mondo senza dare problemi e in ogni caso siamo nella stagione contraria, quindi diamo poco fastidio alla concorrenza. Torniamo alla cooperativa Friul Kiwi. Come vi state organizzando? Come vi state cambiando? Considerato il passo che abbiamo fatto dal 2006 per l'oltremare, chiaramente abbiamo cercato di evolvere quello che è il nostro magazzino, quello che è la capacità frigorifera, quelle che sono un po' le tecniche di produzione, e l'ultimo anello è stata questa famosa cella per conservare il prodotto confezionato, che deve essere caricato in un certo modo perché i paesi, soprattutto quelli di origine asiatica, vogliono che si rispettino certi standard. Quali sono i vantaggi di essere soci di Friul Kiwi? Beh, i vantaggi di essere soci della Friul Kiwi, al di là di poter concentrare il prodotto e quindi sicuramente valorizzarlo su mercati che altrimenti non si potrebbero raggiungere, derivano anche da qualcosa di più tangibile, che è per esempio l'offerta o la possibilità di avere piante a titolo gratuito a chi fa nuovi impianti. Il territorio regionale è un territorio vocato? Direi proprio di sì, in modo particolare la provincia di Udine, dove i terreni sono sicuramente più adatti a coltivare actinidia rispetto magari alla provincia di Pordenone, nello specifico Rauscedo, dove la presenza di scheletro, quindi di sassi, è molto più ampia. Antagonisti naturali, la famosa cimice è un problema anche per voi? Diciamo che la cimice è sicuramente un problema anche per noi, se però devo dare un peso, è un peso inferiore rispetto a melo, pero o altre frutticole che si fanno in regione. Perché uno dovrebbe abbandonare i seminativi e andare sul kiwi? Ma se consideriamo la dimensione media delle nostre aziende, che è sempre molto ridotta, capiamo benissimo che i seminativi diventano sempre meno interessanti dal punto di vista economico. Dall'altra parte, io riesco con una superficie relativamente piccola a dare un reddito alla mia azienda. Quanto tempo ci vuole per entrare in produzione? Diciamo che dal terzo al quarto anno, più verso il quarto, però in ogni caso già dal quarto anno siamo in piena produzione. L'investimento per l'impianto? Dipende un po' se si fa con rete o senza rete. In ogni caso, oggi come oggi, l'investimento può valere circa, chiave in mano, intorno ai 50.000 euro ettaro. È evidente che sono importi che nessuno poi spende, perché gran parte del lavoro che è mano d'opera viene fatto dagli interessati. Nella società contadina di un tempo già si praticava l'economia circolare, già esistevano le prassi del riciclo, nulla era a perdere e ad operare c'erano dei professionisti, i peciotars, come ce li descrive in questo corsivo Enos Costantini. Nella civiltà prossima passata vi era un mestiere di non alto prestigio, ma di grande valore ambientale e sociale, il peciotar. Non saprei come tradurre in italiano in triestino. In francese potrebbe essere chiffonnier, ma forse suona un po' troppo aulico. Lo chiffonnier, o peciotar che dir si voglia, si muoveva con energia pulita, perché carro munito a traino equino. E il suo mus, pur essendo monogastrico, aveva come carburante la cellulosa, puro derivato fotosintetico. Il peciotar si muoveva così per paesi e per casali. All'arrivo lanciava un grido di riconoscimento tribale e subito donne e bambini giungevano con ferri vecchi di cui neppure il nonno sapeva più che farsene, rari stracci inutilizzabili e soprattutto pelli di coniglio. Queste erano valutate con occhio esperto dal peciotar, il quale immancabilmente vi trovava dei difetti e affermava, dall'alto della sua conoscenza del mondo, che le pelli di coniglio non erano più molto richieste, che valevano poco o niente, che il loro mercato era al ribasso, eccetera, eccetera. Però qualcosa, per quanto poco, ti dava sempre. Oggi si chiamerebbe economia circolare. La fine di questo mestiere è stata decretata da Gino Bramieri con la sua pubblicità per il Moplen e il trionfo dei polimeri di sintesi, dei quali peciotars non avrebbero saputo che farsene. Alcuni si riconvertirono divenendo venditori ambulanti di chincaglierie e di mastelli in Moplen, gli altri scomparvero inghiottiti dal neomondo dominato dalla plastica, dove spadroneggiano incontrastate le cinque grandi orde di polimeri. Il polietileneo, PE, quello delle pellicole attorno agli alimenti, il polipropilene, quello dei paraurti, il policloruro di vinile o PVC, quello dei tubi, il polistirene, quello dei vasetti di yogurt e delle custodie per CD, e infine il polietilene teraftalato, che sarebbe il PET, quello delle bottiglie per acqua chiara e acque sporche zuccherate. Il tutto fa milioni e milioni di tonnellate ogni anno, la produzione in continua crescita, ha formato un nuovo continente e solo in piccola parte riciclato, peraltro con notevole costo energetico. Ora la funzione del peciotar è svolta da rumorosi camion che ritirano montagne di PET, di PVC, di PE e di polistirene e non ti danno niente in cambio, anzi sei tu che devi pagare. In friulano l'espressione «campa cavallo che l'erba cresce» era «intanto al creparà il mus o il peciotar». Se aspettiamo ancora un po' a ridurre le plastiche, l'espressione diventa «intanto al crepe il mus, condotto il peciotar». E mai metafora fu più vera se applicata agli umani, che scenderanno gli inferi dove un termovalorizzatore li attende per l'eternità, a spalare PVC sferzati senza pietà da cattivi diavoli con fruste di Moplen. I mus, almeno loro, andranno in paradiso. Nel 2020 il programma di sviluppo rurale riparte con un bando a favore dell'agriturismo. Marco Malison, responsabile tecnico e economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci spiega anche in questo caso di cosa si tratta. Sì, parliamo precisamente dell'intervento 642 denominato diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali, che era già stato oggetto di due bandi, uno nel 2016 e l'altro nel 2017 all'interno del cosiddetto pacchetto giovani. Il primo bando in particolare è stato molto partecipato, tanto che da una dotazione iniziale di 1.400.000 euro, a seguito di successive integrazioni di fondi si è arrivati a una spesa di oltre 5 milioni e 2, accontentando così appena i 2/3 dei richiedenti. E poiché l'interesse per l'agriturismo come integrazione del reddito agricolo è ancora molto alto, ecco l'opportunità di aprire un nuovo bando che ha oggi una dotazione di circa 2 milioni. Chi può accedere al bando e per quale tipo di interventi? Il bando è dedicato alle imprese agricole individuali o societarie iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio che non siano classificate come imprese in difficoltà e che ovviamente intendano avviare o potenziare attività di agriturismo. Gli interventi ammissibili sono l'acquisto o la ristrutturazione di edifici finalizzati allo svolgimento di agriturismo anche con attività didattiche e sociali, nonché l'acquisto di nuove attrezzature e arredi, con la precisazione però che non sono ammesse spese relative all'attività di ristorazione ma solo per la ricettività, ivi comprese le attrezzature per il wellness, quindi saune, palestre, piscine, eccetera, e i parcheggi. E di che entità è l'aiuto? L'aiuto è erogato in conto capitale a titolo di de minimis, nel limite massimo di 200.000 euro per singola impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente. Nella generalità dei casi le aliquote di sostegno sono del 30% sulla spesa ammissibile, percentuale però che si eleva al 40% nel caso i richiedenti siano giovani agricoltori, giovani che svolgono attività prevalentemente in zona svantaggiata o che esercitano agricoltura biologica in forma prevalente. Scadenze? Il bando è già aperto e scade il prossimo 16 marzo, termine ultimo per l'informatizzazione delle domande e di tutti gli allegati tecnici sul SIAN. A tale riguardo è bene ricordare che all'atto della presentazione i richiedenti dovranno essere in possesso di una terna di preventivi per le attrezzature da acquistare e aver già ottenuto, o almeno dimostrare di aver già richiesto, tutte le necessarie autorizzazioni per le opere edili in progetto. Ennio Scarbalo continua l'analisi delle zone pedoclimatiche per l'olivo nella nostra regione. Oggi si concentra sul Collio, i Colli orientali e la zona di Trieste. Attualmente in regione sono presenti poco più di 600 ettari di olivo. I terreni delle zone vocate dove si potrebbe espandere la coltura non sono molti e in totale potrebbero raggiungere o superare di poco il migliaio, anche perché in queste zone sono presenti altre colture attualmente più redditizie. Mi riferisco alle zone delle viticole del Collio e del Collio orientale, dove la vite è la coltura principale e l'oliva è secondario e potrebbe inserirsi nelle zone marginali, ma solo in versanti esposti a sud-ovest, oppure come valore paesaggistico e di abbellimento delle aziende. I terreni sono pesanti, derivano da marne e flis. Per gli eventuali impianti di olivo devono avere un minimo di pendenza per smaltire l'acqua in eccesso. Diverse sono le zone agricole che ricadono in provincia di Trieste. Il Carso è una zona che dal punto di vista della composizione dei terreni si potrebbe dire zona vocata, ma dal punto di vista climatico non lo è assolutamente. Ha una altitudine media di circa 400 metri, ma il clima invernale è molto freddo, presenza di bora, soprattutto nel periodo invernale, con ritorni di freddo improvvisi che si rivelano deleteri per la coltura. Si può azzardare qualche piccolo impianto solo in posti riparati a ridosso dei paesi. La zona di San Rodrigo della Valle è una realtà olivicola affermata, in espansione e di terreni di clima è tra i più favorevoli della regione, è il comune con più olivi della regione. Il territorio del comune di Buggia si può considerare la zona di coltivazione dell'olivo a basso rischio climatico, ma non è sfruttato adeguatamente. Ci sono parecchi terreni abbandonati, anche di grandi dimensioni, qualche ettaro, dimensione eccezionale per la zona. Il clima è mite e risente dell'influsso del mare, però una zona molto a rischio di infezione da parte della mosca dell'olivo. Infine la costiera è favorevole alla coltura, ma ci sono grossi problemi, appezzamenti molto piccoli da 200 e raramente 1000 metri quadrati, viabilità molto limitata, talvolta esistono solo sentieri interpoderali di collegamento, fra gli appezzamenti quasi sempre abbandonati. L'olivicoltura in questa zona dovrebbe e potrebbe avere una valenza paesaggistica, di consolidamento dei pendii e di abbellimento, senza dimenticare anche la produzione di olive e di olio di ottima qualità. Per la rubrica dei giardini, oggi Franca Merluzzi ci porta in un altro castello, il Castello di Spessa, immerso nel Collio Goriziano e il suo paesaggio straordinario. Arrivando si ha una veduta di forte impatto visivo anche in questa stagione, con una conca verde a prato sullo sfondo delle ondulazioni del Collio, tutte disegnate da vigneti. Pochi edifici sparsi e in posizione panoramica il castello con la sua torre alta e merlata. Ristrutturato alla fine dell'Ottocento dall'architetto triestino Ruggero Berlam, l'elegante complesso è oggi un comprensorio di attrazione turistica internazionale. Di recente ha accolto un gruppo di australiani interessati ai cammini tra le vigne e alle degustazioni. Colpisce davvero la straordinaria accuratezza agronomica del paesaggio e altrettanto quella giardinistica attorno al castello. Qui tutto è ordinato, rasato il tappeto erboso dei campi di golf, curate le aiuole con siepi di bosso che ricordano il giardino all'italiana del primo Novecento. Ipocastani ornano il viale romantico e piante di glicine si intrecciano nei berceau. Alcuni interventi effettuati negli ultimi decenni hanno introdotto conifere, soprattutto cipressi. Il luogo è poi legato al nome di un illustre personaggio, tal Giacomo Casanova. A ricordare il suo soggiorno al castello vi è un busto e una passeggiata letteraria che si snoda tra balconate panoramiche, statue e alberature di pregio. Nel percorso si spiega che qui, nel 1773, Casanova fece uno sgarbo amoroso ai danni del conte Torriani che lo ospitava. Casanova scrisse tuttavia che le vigne del conte davano un vin bianco eccellente. Tuttora nelle cantine maturano vini pregiati, soprattutto bianchi. Al castello si accede attraverso una strada fiancheggiata da cipressi. È la strada panoramica del vino che prosegue nel Collio Goriziano, nella piana del Preval e dopo alcuni chilometri verso il Collio Sloveno. Il sentiero delle vigne alte invece collega il castello con la località Subida. Una bella camminata di 45 minuti per tutti. Con la 10ª puntata dedicata all'etame con Sandro Menegon che ci cura questa rubrica, temporalmente eravamo arrivati agli anni 50-60 del secolo scorso e alle stalle della zona montana riadattate grazie ai contributi della Cassa di Risparmio di Udine e dell'amministrazione provinciale del Ministero. Contributi a parte, i lavori di miglioramento delle stalle e delle concimaie adottavano anche concetti diciamo moderni, ma sempre all'insegna dell'economia e all'utilizzo in buona parte di manodopera e materiale aziendale, ad esempio mangiatoie in cemento e legno, in sasso e legno, porta in castagno o porta in abete. Nel territorio di Trieste, con gli aiuti secondo le direttive dell'Ispettorato Provinciale d'Agricoltura, su 1350 stalle, vecchie ma abbastanza spaziose, 350 furono edificate e riadattate. Le nuove 550 concimaie vennero costruite a celle con alte pareti perimetrali che, riparando l'etame dalla bora, limitavano una rapida ed eccessiva perdita di umidità dell'etame stesso. I grandi mutamenti di quel periodo portarono ulteriori modifiche negli allevamenti, specialmente anche quelli di pianura. La ristrutturazione di molte stalle e i moderni sistemi di contenimento permisero di portare la mangiatoia a livello della posta, riducendo la lunghezza della stessa, non dovendo l'animale retrocedere per coricarsi ed avanzare per alimentarsi. Questa innovazione determinò minor consumo di lettiera, ma se d'opera manco stran, ma se fa manco grassa, commentava Antonio De Giusti, Tony Boer della Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano. Va inoltre considerata la minore disponibilità di paglia, perché le nuove varietà dei cereali autunno-vernini si caratterizzavano per la loro taglia ridotta. Penso che si possa ritenere qui, alla fine, che la motorizzazione abbia accelerato tutte le operazioni di campagna, compreso anche quelle del trasporto dell'etame dalla concimaia ai campi. Indubbiamente la motorizzazione e le moderne attrezzature, quali le forche cariche e i rimorchi span di letame, ridussero a gran lunga le fatiche per l'utilizzo dello stalatico, permisero una distribuzione più uniforme in campo e la tempestività dei lavori ridussero le perdite di nutrienti. La scarsa viabilità, l'acclività dei versanti, la limitata dimensione dei fondi, che ostacolarono la meccanizzazione nella zona alpina e prealpina, furono ulteriori cause dello spopolamento e dell'abbandono delle attività zootecniche. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento sostenuto venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro al quintale, IVA esclusa. La soia fra 34,80 e 35,10. L'orzo, con peso specifico 60,63, tra 16,30 e 16,70. Il frumento tra 19,10 e 19,40. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 60 centesimi il quintale, la soia aumentata di 1,40 euro. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 1,40 e 1,50 euro al chilo, IVA esclusa. La scalola riccia tra 2,50 e 2,70. I pomodori italiani in grappolo tra 1,90 e 2,10. I finocchi tra 1,10 e 1,20. I cavoli tra 1,70 e 1,80. Il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1,20. Quello di Treviso precoce tra 1 e 1,50. Quello tardivo tra 3,54 euro. I kiwi tra 1,50 e 2 euro, le mele golden tra 0,80 e 1,50, le clementine tra 1,50 e 2 euro e le arance tarocco tra 0,80 e 1,50. Settimana discreta nel settore della pesca, per condizioni climatiche buone. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 15 a 27 euro al chilo, IVA esclusa. I rombi da 24 a 28, le ombrine da 10 a 28, le sogliole da 5 a 20, le canocce da 5 a 12, le seppie da 7 a 11, i moscardini e le passere da 5 a 12, le mormore da 10 a 14, i calamari da 18 a 22 e i gamberetti da 18 a 25. Infine, tendenze attive nel mercato degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 0,87,50 e 0,89,50 il chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49. Ed ora il microfono al previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo. Sentiamo cosa ci riserva il meteo nella settimana entrante. Dopo una settimana caratterizzata dal bel tempo e dall'inversione termica, con temperature miti in quota, l'arrivo di un modesto fronte nel fine settimana ha aperto la porta alle correnti atlantiche in quota. Una pausa relativa per domani, con schiarite anche ampie, ma aumento della nuvolosità la sera e temperature stazionarie, sarà seguita da un fronte nella giornata di martedì, con nubi, piogge moderate e neve oltre i 600 metri circa. Soffierà di beccio sulla costa. Mercoledì prevarranno le correnti da nord-ovest in quota, che seguono il fronte, e arriveranno schiarite. Qualche nube potrebbe permanere sulla fascia alpina. Le temperature saranno ancora relativamente miti. Da giovedì sembrerebbe prevalere l'anticiclone, con aria di nuovo calda in quota e inversione termica nei bassi strati. Da giovedì e verso il fine settimana, quindi, avremo poche nubi, gelate notturne a fondo valle e in pianura, non sulla costa, e temperature diurne superiori ai 10 gradi. Caldo anche in quota con zero termico oltre i 3.000 metri, naturalmente senza precipitazioni. Vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.meteo.fvg.it, sulla radio regionale, radio e televisione e sui social media nei giorni a venire per conferme o smentite dello scenario fin qui delineato. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato alla luna: cerchi vicin, ploe lontan, cerchi lontan, ploe vicin, ovvero l'ampiezza dell'alone della luna determina la possibilità di pioggia a secondo sia vicino o lontano. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.